Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Con il primo appuntamento di questa settimana insieme all'Associazione Difesa Consumatori di Mestre riprendiamo un tema che avevamo già trattato alcune settimane fa, ma perché ci sono degli aggiornamenti ed è un tema ancora una volta di estrema attualità. Parliamo di mutui e finanziamenti con le perizie fatte proprio dall'Adico con un apposito sportello. Bentrovato Carlo Garofolini, presidente dell'Adico. Ciao Mirko e un saluto a tutti gli ascoltatori. Ne avevamo parlato appunto alcune settimane fa con l'avvocato Gioia Barbato, questo nuovo servizio di perizia dal quale era emerso che una buona parte appunto dei mutui e dei finanziamenti erogati faceva registrare un tasso usurario, e ne torniamo a parlare perché i dati sono confermati. Certo, qualche settimana fa abbiamo proprio iniziato ad attivare questo servizio, come hai detto poc'anzi, e veramente vista la grande lavoro e la grande visibilità che questa attività continua ad avere, vogliamo continuare a fare il bilancio di questo lavoro e soprattutto tenere alto quello che è un interesse che a nostro avviso i consumatori dovrebbero sempre avere, e cioè quello di considerare l'eventualità che il proprio mutuo che qualcuno di noi può aver sottoscritto negli anni trascorsi o in questo periodo possa presentare certe condizioni di tasso per il quale il mutuo possa rientrare in quella casistica di mutuo con tasso di usura. Un'attività per il quale oggi veramente possiamo fare un bilancio, ma di cui i numeri sono veramente sconcertanti. È confermato che circa uno su tre appunto ha un tasso usurario. Ricordiamo, Carlo, l'avevamo già detto, che non tutti i mutui, non tutti i finanziamenti hanno l'applicazione dello stesso tasso, ma che la soglia di usura viene decisa dalla Banca d'Italia a seconda del tipo di contratto. Certo, normalmente la Banca d'Italia ogni tre mesi stabilisce quello che è, come hai detto tu, a seconda del tipo di contratto, il tasso di riferimento entro il quale, se questo tasso viene superato o raggiunto, si considera il mutuo o il finanziamento a tasso d'usura. Certamente ricordiamo a tutti che il tasso d'usura non è quel tasso di interesse che una persona paga sui mutui, ma è la presenza di quelle condizioni che ne potrebbero determinare l'usurarietà di un finanziamento, di un mutuo, anche a seconda di quelle che possono essere certe condizioni, come quali una penale, un ritardo di un pagamento o certe altre condizioni che il contratto può avere, per cui in presenza di questo raggiungimento di tasso d'usura o superamento si intende appunto un mutuo a tasso di usura, e pertanto in quel momento là scatta tutta l'azione dell'Adico nei confronti della banca e la richiesta di restituzione degli interessi per i quali fino adesso il consumatore ha pagato. Eh sì, perché voi avete stipulato una convenzione con un commercialista proprio per seguire passo passo e dettagliatamente, perché poi tutte queste cose, lo ricordiamo, di solito sono scritte in carattere microscopico, sono tutte quelle notazioni che riguardano ad esempio il TAEG o il TAN, che sono certo legali, ma a volte rischiano di sforare il tetto stabilito. Certo, praticamente cosa accade? Che con una convenzione che abbiamo determinato con dei noti commercialisti, l'Adico si impegna a fare una prima analisi su quello che è, su quello che sono le condizioni dei mutui o dei contratti che le persone hanno sottoscritto. Certamente il consumatore deve sapere che deve rivolgersi già con tutta la documentazione che deve permettere a chi collabora con l'Adico poter analizzarla, e poi se l'attività dell'Adico cerca appunto di risolvere questo problema trovando una soluzione extragiudiziale, e permette al consumatore quindi di risolvere il contratto a seconda di quelle che sono le condizioni più vantaggiose per l'utente. Ricordiamo che per quanto riguarda i mutui ormai da tempo c'è la possibilità di ricontrattarli o di cambiare banca a spese zero, me lo confermi? Sì, come hai detto Mirko, una delle principali interventi che sostanzialmente anche noi riteniamo utili proprio per dare incontro a quelle che sono anche le esigenze che si possono modificare o meno nella vita contributiva di chi paga appunto queste rate, è quello di poter modificare la durata o l'importo del mutuo, quindi la famosa rinegoziazione o addirittura estinzione, che deve essere a tasso zero anche in presenza di una risoluzione dell'ipoteca, che questa deve prevedere appunto la totale gratuiticità nei confronti dell'utente. Come mai avete pensato di fare questa serie di perizie di, appunto riguardanti i mutui e i finanziamenti? Diciamo che in questo periodo sono stati gli utenti a chiedercelo, proprio per la grande visibilità che le TV e le radio hanno dato a questa notizia, che si tratta di una recente sentenza della Cassazione, che è proprio che era 1815,2 del Codice Civile, che il consumatore appunto in presenza di queste condizioni può richiedere la restituzione di tutti gli interessi pagati o, se il rapporto non è concluso, l'abbuono di quelli previsti per le rate future. E in virtù di questa notizia molti hanno cominciato a prenderci d'assalto. Conseguentemente a questo, proprio per contenere i costi e rendere accessibile il servizio, abbiamo deciso di organizzarci e verificare appunto il riscontro o meno di quelli che sono i timori, che fino adesso sono risultati anche abbastanza fondati nel 30% delle casistiche, da parte dei cittadini. Voi avete verificato sia banche nazionali, internazionali che banche locali? Sì, sì, non c'è distinzione tra grandi istituti e piccoli istituti, tra autonomo e privato cittadino. Ormai il dato sostanzialmente coinvolge un po' tutti, per cui certamente possiamo dire che nessuno può considerarsi immune da questo. E questo per quanto riguarda contratti che sono depositati, cioè contratti ufficiali che possono avere appunto dei tassi anche al di fuori dei limiti di legge. Non apriamo nemmeno, lo citiamo solo Carlo, il capitolo relativo ai finanziamenti diciamo occulti, cioè all'usura quella vera che davvero ha fatto e purtroppo continua a fare tanti danni. Ah, certamente, quello è un capitolo a parte, perché quello è un fenomeno del tutto illegale, dove non è neanche regolamentato, e normalmente dietro a questi fenomeni certamente ci sono anche delle veri e propri fenomeni che veramente possono si possono considerare fenomeni del tutto anche pericolosi, ma del tutto che al di fuori di quelle che sono il rispetto delle regole che esistono oggi nel mercato. Pertanto mai cercare di rivolgersi a nessuno di questi tipi di persone, che dobbiamo parlare proprio di delinquenza organizzata, ma anzi invitiamo tutti a denunciarli qualora si trovano vittime di questi strozzini. Fra un paio di giorni un altro argomento insieme all'Associazione Difesa Consumatori di Mestre. Grazie al presidente Carlo Garofolini e buon proseguimento. Grazie a te Mirko e un saluto a tutti gli ascoltatori. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma vai su bluradioveneto.it.